ad alta voce. Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Settima puntata. Xenia saliva le scale piano, affaticata, con la borsa della spesa a segarle il braccio e ad aumentare il peso della giornata. Patate, aringhe, cipolle, il sentore pungente dei cibi poveri l'accompagnava, lasciava una scia. L'odore del borscht l'accolse come un abbraccio. Aveva lasciato le finestre chiuse perché non scappasse via. Un gioco che faceva, far finta che qualcun altro avesse cucinato per lei, per consolarsi, per darsi forza quando si sentiva troppo stanca e sfiduciata e povera. La finzione è già finita. Aprì le finestre. Con metodicità cominciò a disfare i letti, cuscini e coperte sui davanzali a prendere aria. Registrò uno strappo da rammendare. La biancheria di cattiva qualità cede ad ogni sollecitazione. Sperò che fra le lenzuola stese ad asciugare nella sua stanza ce ne fossero un paio ancora in condizioni decenti, tali da non spaventare, così di primo acchito, il nuovo ospite che oggi sarebbe venuto. 5 pensionanti, e d'ora in poi 6. Più fatica per lei, ma anche più soldi. Xeniuska, che cresceva, aveva bisogno di tante cose. Depose sul tavolo di cucina le verdure che erano nella borsa. Dal fondo trasse fuori un pacchettino. Andò ad appoggiarlo sul comodino di sua figlia, un piccolo regalo per la pagella che certo sarebbe stata buona. Dai fili stesi da una parete all'altra della sua stanza tolse le lenzuola finalmente asciutte. L'odore di umido non se ne andava malgrado la finestra spalancata. Ebbe voglia di lavanda, di rose. Si consolò lucidando con il panno di lana il samovar d'argento. Troneggiava sul comò sbilenco, l'unica cosa bella, scintillante, fastosa in quell'ambiente di oggetti recuperati, di mobili scompagnati comperati dai rigattieri. Precisa e rapida, Xenia ordinò, pulì, dispose. I pavimenti da lavare, le coperte ben tese sui letti, ancora un bucato da mettere a bagno nella tinozza, altro vapore ed altra liscivia ad appannarle gli occhiali, a bruciarle le mani. Poi con un libro sulle ginocchia, finalmente 5 minuti per sé e seduta, attese che sua figlia tornasse dalla scuola. Xeniuska sulla porta con il fiato corto delle scale, la mano a premere la milza come al solito dolente. Una ragazzetta troppo magra, tutta gomiti, ginocchia e occhi. Le trecce pesanti che le sciabolavano la schiena in movimenti nervosi, scontenti. Sedette di fronte a sua madre, attenta alla molla rotta che l'imbottitura non tratteneva più. Si guardò le mani, bianche di limone e morbide di olio di mandorle, decisa a non alzare gli occhi sui muri scrostati, sulle pentole bitorzolute appese alla meglio alla rastrelliera, sui 1000 segni di miseria che le impedivano di invitare in casa le amiche, le compagne di scuola. Xenia chiuse il suo libro piano, nascondendo il rimpianto. Quasi temesse di scatenare con un rumore o un sentimento qualsiasi le recriminazioni di Xeniuska, la sua scontentezza sempre pronta ad esplodere. Le chiese della pagella, sua figlia confermò che era buona. «Vai in camera», le disse. «C'è un regalo per te». Tutta rischiarata, Xeniuska si alzò. La madre la seguì nel lungo corridoio pieno di porte fino alla stanza sul fondo, la stanza di servizio, in cui ormai avrebbero dormito tutte e due. Un pensionante in più significava rinunciare all'ultimo briciolo di intimità, condividere il sonno, il risveglio, le letture serali nel tepore del letto. Xeniuska afferrò il pacchettino. Dentro c'era un nastro di raso, di un rosa tenue e perlato. Subito lo srotolò. Lo appoggiò in varie fogge sui capelli, poi, un po' scenograficamente, se lo accostò al viso, per assaggiarne la dolcezza con le guance, la bocca. I gesti e la gioia bloccati. negli occhi un lampo di rabbia, amaro. «Puzza di cipolla!» disse. Inutile dirle della fatica delle compere, delle scale, del denaro. Xenia si limitò a tranquillizzarla, a prometterle che avrebbe provveduto lei a renderlo inodore o fragrante addirittura. Ancora rigida, Xeniuska annunciò che avrebbe studiato con una compagna. Scelse libri e quaderni da portare con sé. Il resto sparpagliato lo lasciò sul letto. Xenia la lasciò andare, rinunciando a richieste di ordine che avrebbero comportato altre fatiche, altri scontri. La figlia uscì, senza sbattere la porta una volta tanto, ed era un segno di conciliazione. Prese in mano per metterlo a posto il quaderno dei componimenti, come altre volte lo sfogliò. Costellato di buoni voti, sua figlia aveva ereditato da lei la facilità di scrittura, la puntualità dell'osservazione. Vide alcuni fogli mal ripiegati, li spianò, non pensò all'indiscrezione leggendoli. «Mio padre» era il tema. Lo svolgimento parlava di viaggi per mare, una lontananza motivata e favolosa, lettere da paesi lontani in cui lui diceva del suo amore per la figlia, dei mille regali costosi ed eleganti che avrebbe comprato per lei. Il voto dell'insegnante, come di consueto, era alto. Il diplomatico cui dava lezione di russo arrivò con ritardo e se ne scusò. «Trattenuto all'ambasciata per dispacci urgenti», le disse. «La situazione nelle cancellerie d'Europa giustificava preoccupazioni e impegno». Una volta di più Xenia si chiese cosa volesse davvero da lei quell'uomo, che da mesi ormai con regolarità le veniva in casa per gli esercizi di conversazione. Per il mestiere che faceva, i commenti all'attualità politica si affacciavano con naturalezza nei loro discorsi, ma sempre lei sentiva di dover stare in guardia, come per un interrogatorio. E i soldi che le dava, così indispensabili, erano un piccolo dubbio di complicità, di delazione perfino. Di tanto in tanto l'uomo le regalava cioccolatini, qualche fiore. Il pensiero di un corteggiamento l'aveva allontanato tanto tempo prima, declinando il suo invito per i balletti che pure avrebbe tanto desiderato vedere. Ma il disagio per gli abiti non adeguati, l'incertezza per un braccio maschile cui non era più abituata ad appoggiarsi, lo stesso rossore che le aveva invaso le guance e il collo già soltanto per un'attenzione, l'avevano persuasa a rinunciare, senza che ciò le comportasse all'apparenza sforzo o rimpianti. Quel giorno lui aveva portato una scatola di papirosci, le sigarette dal bocchino lunghissimo che anche Lev, quando erano insieme, aveva fumato. Xenia le guardò con nostalgia e tenerezza. Ne accettò una soltanto e la fumò in fretta, senza goderne, spegnendola poi con furia nel posacenere. Conversarono per quasi un'ora, lui incespicando nelle parole, lei correggendolo di tanto in tanto, in discorsi che la costringevano a pensare, a diffidare, a inventare argomenti privi di insidie. Quando rientrò, Xeniuska vide l'uomo e gli sorrise. Le piacevano il grosso brillante che portava la cravatta, le camicie inamidate alla perfezione, le scarpe lucidissime e alla moda. Lui si alzò, batté i tacchi, si chinò a sfiorarle la mano con un bacio benché troppo bambina. Xenia registrò il gesto e non le fece piacere. Comunque la lezione era finita ormai e lui si accomiatò. Xeniuska, un po' eccitata, sua madre con una ruga fra le sopracciglia di preoccupazione o dispetto. Si diede un tempo, cercò parole più neutre e morbide, ma non le trovò. «Dunque tuo padre è un viaggiatore», disse. E fu come uno sparo. Xeniuska rimase a metà di un gesto, troppo piena di colpa per rivendicare il segreto, il diritto a non far leggere le cose che scriveva. Si umettò le labbra con la lingua, cercò una strada facile, ma era per scherzo. «Un componimento di fantasia», aveva detto la maestra. come desiderava uno schiaffo Xeniuska. Nelle famiglie delle sue compagne succedeva così, un ceffone ed era finita, senza tutte quelle parole a scavarti dentro, a farti male, a costringerti a pensare. Cercando lo scontro e la fine, disse: «E chi ci sarebbe di male poi?» Quanta pedagogia aveva studiato Xenia e come conosceva sua figlia. Strinse forte le mani per controllarsi, la ruga fra le sopracciglia più incisa e severa. «C'è di male che tuo padre non era un omettino. Uno di quelli a cui bisogna infiocchettare la vita perché altrimenti non avrebbe senso. Tuo padre?» Xeniuska, non vista, alzò gli occhi al cielo. «Era un rivoluzionario ed è morto per il riscatto degli umili e degli oppressi.» Dall'uscio entrò Jaco, uno dei pensionanti, il naso rosso per il raffreddore e la lunga barba in disordine. Xeniuska non resisté alla tentazione. «Un rivoluzionario come lui?» «Ce ne fossero mille così!» urlò Xenia esasperata. E non si capiva se si riferisse a Lev o al povero Jakov, che evitando ogni rischio le lasciò subito sole. «Un punto per me», si disse Xeniuska. Sua madre non urlava mai, non si lasciava mai andare. Xenia era troppo stanca. Fatica, problemi e preoccupazioni della giornata le pesavano sulla nuca. Sciolse la corona di trecce per darsi sollievo. Con le forcine d'osso fra le mani si sentì soltanto più in disordine, più invecchiata, più fragile. Prese la mano di sua figlia e la costrinse a sedere di nuovo. Se l'avesse guardata negli occhi, Xeniuska avrebbe scoperto un accenno di lacrime, un piccolo segno di debolezza che subito sua madre cancellò. Dal medaglione d'argento che portava al collo, Xenia trasse un foglietto piegato e ripiegato, un lembo di carta velina coperto di una grafia minuta per necessità, quasi illeggibile. Con attenzione infinita lo aperse, lo distese. «Tuo padre non ti ha mai scritto. Eri così piccola», disse, e sembrava scusarsi per lui. «C'è stato così poco tempo. Di lui non ho niente», accusò Xeniuska, forte delle difficoltà di sua madre. «Mishka lo comperò lui. Era così felice quando lo appoggiò sulla culla che preparavo per te». «Giusto un dono da lattanti», disse liquidatoria Xeniuska, benché l'orsacchiotto fosse ancora il compagno indispensabile delle sue notti. Ancora Xenia lisciò il foglio di velina, piano piano, cercando nei gesti un aiuto per le parole giuste che non riusciva a trovare. «Sono felice», lesse, «perché non sei qui, e sono felice perché pensi a me». Poteva recitarla a memoria quella lettera, ma ora doveva farla nuova, reinventarla per quella figlia che non voleva sapere, per quella figlia preoccupata soltanto di sé che voleva cancellarle il passato. Inghiottì tutta la saliva che riuscì a raccogliere, riprese a leggere. «Talvolta, come in un sogno, sento la tua mano accarezzarmi i capelli. È come se ti parlasse, non senti, Xeniuska? Scriveva a te, ancora quel tono di sfida, quel rimproverarle senza requie di averla messa al mondo da perdente, una polide senza radici né di posizione né di affetti. E guai a parlarle di sacrifici, non quelli economici ma di vita. Scordarsi la rivoluzione e i sogni e rimboccarsi le maniche per lei, inventarsi un mestiere, tirar su i soldi di un'esistenza quanto più possibile uguale a quella di tanti». «Ascolta», disse Xenia, ed era quasi un'implorazione. Piena di rancore, Xeniuska alzò gli occhi su sua madre. I lineamenti eleganti e sciupati la colpirono improvvisamente come uno schiaffo, diverso e più doloroso di quello che aveva tentato di provocare. Fece un respiro profondo. «Ascolto», disse piano. Sua madre le sorrise, stupita e grata. «Non voglio vedere la bambina. C'è per ogni uomo un limite a quel che può sopportare. Riesco a vedere mia madre. Incontrare te mi costerebbe già moltissimo. Ma lei è qualcosa di superiore alle mie forze. Non posso. Quando me l'immagino, questa piccolina che non conosco e che pure amo tanto, me la figuro che mi guarda senza capire cosa accade. Mi dico, che sta forse per scoppiare in pianto di fronte a questo mio viso sconosciuto. Non posso. So che anch'io, io che nessuno salvo te ha mai visto piangere, piangerei come un bambino. Quando ho le guardie. Il mio ultimo desiderio, la cosa a cui tengo di più, è che nostra figlia abbia una madre con la quale poter vivere e crescere. E quando sarà cresciuta aprirai per lei le più belle pagine del tuo diario, le racconterai quanto ti amavo, le dirai che ho lasciato quanto avevo di più caro, la vita stessa, per lottare contro l'altrui infelicità e sofferenza. Ti accludo alcuni esemplari, i migliori, della magra flora che cresce nel cortile dell'aria. Li ho raccolti e fatti seccare per te. Questa lettera è l'ultima. Addio, compagna di tante lotte. Addio, mia amata. Addio, amore mio. Una parola atroce che si libra nell'aria come un tocco di campana, via via più flebile, via via più tenue. Addio. Dalla fortezza di Pietro e Paolo, 8 luglio 1907. Una pausa lunga di silenzio, segnasi da un tempo per recuperare la normalità della voce, smarrita in una doppia emozione. Anche Xinyushka è muta. Vorrebbe scrollarsi di dosso il peso di quella lapide che le sbarra la vita, ma insieme dà un senso alla miseria, alle vergogne e ai disagi. Il ticchettio della brutta sveglia, metallico e fastidioso, la goccia d'acqua dello scarico difettoso. Facendosi forza con le mani sulle ginocchia, Xenia si alzò e tornò ad essere un'affitta camera. Carponi asciugò sotto il lavandino e poi mise una pentola per evitare laghi. Più tardi cercare di rinforzare la guarnizione e ora sbrigarsi, finire di preparare la cena, il bucato, i rammendi e poi fare il letto nuovo, spolverare, i mille gesti che non le appartenevano e che le davano da vivere. Sempre silenziosa, Xenyushka fece la sua parte, madre e figlia insieme, per un momento. Quando il nuovo ospite arrivò, Xenia lo salutò con calore. Gli presentò Xenyushka, che fece il piccolo inchino elegante imparato da sua madre. Lui ringraziò insistentemente per la generosità. Un gesto coraggioso garantire in questura per lui, ebreo e sionista. Xenyushka pensò che proprio non se ne sentiva la necessità di gesti magnanimi e di rischi aggiuntivi. Sua madre tagliò corto con le cortesie e prese a chiedere di Gerusalemme, della Palestina, di vecchi suoi compagni di lotta ora impegnati su quel nuovo fronte. Arrivò anche Jacob e in tre si chiusero in un parlottio fitto, citazioni e rimandi che Xenyushka non poteva capire e non voleva sentire. Compitamente salutò, la congedarono distrattamente, andò a chiudersi nella stanza da letto. Scrisse sul proprio diario di giovani ai tanti, di palazzi sfavillanti, di una vita facile da attraversarsi. Ma i sogni si sbrindellavano. I sussurri che le arrivavano, anche attraverso la porta chiusa, erano una minaccia e insieme l'impossibilità di staccarsi da terra, di librarsi al di sopra di sconfitte e difficoltà. Si spogliò, indossò la camicia da notte ruvida e grossolana che odiava, si infilò nel letto freddo cercandovi il riparo. Ancora rabbia per quel colloquio che la escludeva, che le portava via anche sua madre. Niente abbraccio della buonanotte stasera. Con i gesti già intorpiditi dal sonno e la testa che piano piano diventava di bambagia, come di consueto cercò il calore di Mishka, l'abbracciò stretto e per la pressione e il meccanismo che c'era dentro, una volta tanto funzionò. Dall'orsacchiotto uscì un suono mesto, come un pianto. Sorpresa dal rumore, privata con un soprassalto del sonno che doveva consolarla, Xenyushka sentì moltiplicarsi infelicità e rancori. Mishka finì sul pavimento, al freddo. Il viaggio a Venezia fu progettato per mesi. Rinviato più volte per varie necessità, alimentò fantasie e progetti via via più circostanziati e precisi, al punto che Alfonsa, in genere assai tranquilla delle proprie iniziative, temette che la città così a lungo sognata deludesse i ragazzi. Quando finalmente si partì, l'eccitazione era grande. Lello alla stazione teneva stretta in mano la guida rossa del touring club perché i figli smettessero di litigarsela e risparmiò loro per una volta lo scherzo della perdita dei biglietti, per non aggiungere emozioni ad una situazione che perfino Alfonsa governava con difficoltà. I cugini di Venezia, coinvolti per corrispondenza nel gioco dei regni, tentarono scalate al potere subito smontate dalla supremazia non discutibile di Enrico, Enzo e Mimmo, che di fronte ad attentati esterni si compattavano in un muro. Così i giochi furono pacifici, privi di contrasti clamorosi, perciò tutti furono lasciati liberi di andarsene a zonzo per la città, di scoprirla al loro modo. Chiese, musei, gallerie d'arte, giardini segreti e minuscoli, torri merlettate, la musica in San Marco quando l'oscurità calava, smorzando i toni eccessivi della città, e su tutto il fascino dell'acqua, lo sciabordio come unico rumore, calli e campielli privi di veicoli e pericoli. Mentre i ragazzi tornavano verso casa, un pomeriggio sul tardi, la nebbia scese improvvisa e fittissima. Le calli assunsero strane risonanze ovattate. Lea prese per mano Mimmo, però senza vera apprensione perché il percorso ormai lo conoscevano bene. Gli altri affrettarono l'andatura, infreddoliti, Enrico e il cugino più grande davanti a fare da alfieri. Enzo insensibilmente rallentò il passo, si lasciò superare, restò indietro di qualche metro. Sbucarono in un gran campo e la nebbia ne rendeva indistinguibili i limiti, i punti di riferimento. Enzo solo nel buio, certo di non perdersi e invisibile. Intorno le voci lo chiamano, ma se non risponderà, nessuno potrà trovarlo. Un senso di libertà dolce e lacerante, la possibilità di decidere fra presenza e fuga, fra solitudine e adesione. Le voci lo chiamano, Enzo si gode la preoccupazione che sente crescervi dentro, per la sgridata che possono ricevere, ma anche per lui introvabile, perso. Anche Mimmo, come gli altri lo chiama, in gola ha una nota di pianto che non riesce del tutto a controllare. «Eccomi, sono qua!» disse Enzo. E già la casa era vicina, pronta ad accoglierli, con le finestre tremolanti di luce. Un gran buio e poi il bagliore della fornace. Gli uomini a torso nudo soffiavano nei tubi e con tocchi rapidi creavano uccelli, damine, calici di forme fantasiose, fiori. L'uomo che li guidava nella visita alla vetreria snocciolava dati, notizie, curiosità. Ma i ragazzi sì e no lo ascoltavano. La magia del vetro calamitava tanto la loro attenzione che per un po' non si accorsero neanche del caldo, dell'aria faticosa a respirarsi, della tosse insistente, ora dell'uno, ora dell'altro dei fornaciai, che il fragore delle fiamme copriva a malapena. «Un girone infernale!» commentò scuotendosi dalla meraviglia Enrico, che cominciava a familiarizzare, oltre che con le punizioni vaghe previste dalla Ghenna, con le pene ben specificate della Divina Commedia. Ermelinda, che li accompagnava nella gita, temé che si accaldassero troppo. Fece un cenno alla guida che si avviò verso il magazzino. I ragazzi malvolentieri distolsero gli occhi dalla fornace e li seguirono. Nel grande emporio della vetreria, Ermelinda scelse per sé un servizio da rosolio e un lampadario a molte braccia. Prese nota delle istruzioni per comporne a dovere le decine e decine di pezzi una volta che fossero giunti a destinazione. Ne controllò l'imballaggio con trucioli, carta e cartoni. Poi annunciò ai ragazzi che avrebbe fatto a ciascuno un regalo. Scelto fra i tanti oggetti che occupavano dall'angolo più riposto su fino ai soffitti il magazzino. Toccarono mille cose. Le meraviglie erano tante e perciò scegliere era difficile. Per primo Enrico decise per sé un tagliacarte, quasi invisibile per trasparenza, severo nella sua fragilità elegante e pericolosa. Lea ebbe una collana di tanti fili e molti colori. Enzo scelse un veliero minuscolo che non sapeva se battezzare Santa Maria o Nina o Pinta. I commessi impacchettavano via via, incolonnavano le cifre. L'ora della chiusura si avvicinava e la fretta di concludere, pur nella consueta gentilezza appena untuosa, cominciava a trasparire. Mimmo, con gli occhi pieni di colori, di forme, di sogni, le mani strette nelle tasche dei pantaloncini per evitare con una scelta di precludersi altre vie, smise il peregrinare di fronte al banco delle murrine, conquistato dalle forme tondeggianti che racchiudevano e proteggevano farfalle e paesaggi, maschere di carnevale, riproduzioni di monumenti, dei mondi interi in una bolla di vetro. Accortosi dell'interesse, il commesso gli si affrettò accanto, pulì con un panno quel po' di polvere che poteva offuscarne la nitidezza, ne illustrò le caratteristiche, ne spiegò il senso e l'origine. Parlava senza fermarsi mai, senza quasi prendere fiato, pronto a cogliere al volo il momento in cui il bambino si fosse finalmente deciso. Su uno scaffale basso, giusto alla sua altezza, Mimmo vide una murrina più piccola ancora delle altre, una minuscola sfera appena appiattita con dentro un mappamondo quasi invisibile. I continenti avevano dimensioni così piccole che il commesso dovette, con una lente di ingrandimento, mostrargli gli oceani, i poli, i meridiani e i paralleli, tutti tracciati con microscopica precisione. Non volle che gliela incartassero, se la mise in tasca e il vetro prese il calore della mano. Della geografia Mimmo aveva all'epoca un'idea vaga, ma pensò che avercelo in tasca il mondo è un buon modo per non lasciarselo sfuggire. Si conclude qui la settima puntata del Gioco dei Regni di Clara Sereni, la lettura nella voce di Monica Piseddu, l'alta voce possiamo dire, per citare il titolo del programma, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, alla regia Riccardo Amorese. Le puntate sono riascoltabili sul sito raiplayradio.it e intanto qui sulla pagina web, su Facebook, su tutti i canali di Firenet continuano ad arrivare messaggi, alcuni hanno a che fare ancora con il tema dell'invidia. Più di uno ci chiede di ricordare la pièce teatrale di Pushkin, L'invidia, da cui fu tratta l'opera Mozart e Salieri e poi più tardi da Miloš Forman il film Amadeus, ed è uno dei riferimenti, devo dire, abbastanza numerosi che emergono nel corso di questa giornata che si è aperta appunto sotto il segno dell'invidia letteraria, questa invidia così comune. Quella artistica, ci scrive Massimo, l'unico genere di invidia della quale mi è capitato qualche volta di soffrire, ma questa è una frase che abbiamo citato in apertura e dunque è giusto che la citiamo ancora quando siamo vicini alla fine del programma. Abbiamo però ancora un ascolto dal nostro Signs of Life della Penguin Cafe Orchestra del 1987, ascoltiamo Dirt.